Good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that, Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte, quella che state ascoltando è la nostra 164esima trasmissione. Questa sera qui in radio siamo io, Caterina, e con me c'è Pina, e in più c'è una nostra graditissima ospite, Monica. Gli argomenti di cui parleremo oggi riguardano entrambi la nostra politica. La prima parte sarà un breve resoconto del convegno organizzato dal Centro Femminista Separatista lo scorso 14 e 15 maggio, e la seconda parte prevede uno scambio con Monica. Monica è una nostra nuova amica con la quale abbiamo iniziato una serie di collaborazioni per un reciproco scambio. Ci auguriamo che quello di Monica oggi dia il via ad una serie di incontri scambio proficui anche con tutte le altre donne che decideranno di dar voce ai propri desideri, ai propri stati d'animo, ai propri pensieri e alle proprie riflessioni, e che soprattutto manifestino la voglia di parlarne con noi. Vi ricordiamo infatti che questo è uno spazio che noi autogestiamo all'interno del martedì femminista e lesbico di Radio Onda Rossa, e che quindi è uno spazio anche vostro. Potete aiutarci a dare voce a quanto sia dentro, a ciò che si vuole far sapere e a ciò che si ritiene importante condividere, attivando uno spazio di relazione costruttiva con noi e con tutte le altre. Vi ricordiamo che avete la possibilità di intervenire a questa trasmissione attraverso l'invio di sms al nostro numero di cellulare, che è 338-4146-682. Visto che forse il messaggio potrebbe essere troppo sintetico, vi ricordiamo che potete anche scriverci utilizzando la nostra mail, che è contatti@clrbp.it. Oppure potete scriverci a CLR presso Centro Femminista Separatista di via San Francesco di Sales 1B 00165 Roma. Adesso però ascoltiamoci subito un brano musicale, è del duo Castleberry Dupré e il titolo del brano è The Clan. The countryside is cold and still. There were three crosses on the hill. And I cried, whoa, whoa, whoa. Ciao, buonasera a tutte, sono Pina e come voi già sapete e come abbiamo già pubblicizzato una settimana fa, anzi più di una settimana, più di una settimana. Per più di una settimana e quindi dovreste anche averlo in qualche modo interiorizzato, il 14 e il 15 maggio scorso presso il centro femminista separatista si è svolto il convegno organizzato da noi del coordinamento lesbiche romane insieme a tutto il centro femminista separatista, al fuoricampo lesbian group di Bologna, all'associazione separatista desiderante di Bari, e il convegno, il titolo del convegno era il soggetto lesbica, sovvertire il pensiero egemone per una riscrittura del simbolico. Il convegno è andato molto bene ed è stato anche particolarmente interessante, e per noi però che lo abbiamo organizzato è stato anche molto stancante, diciamoci la verità, e quindi oggi vorremmo darvi un piccolo resoconto, insomma ci farebbe piacere e condividere con voi questo piacere di un resoconto. E proprio perché alla luce della nostra pratica politica che parte dalla relazione si possa avere un ulteriore scambio anche con voi, e quindi partiamo dal principio, e cioè da dove poi abbiamo iniziato. L'idea è stata quella di cominciare partendo dalle nostre vite e quindi dal soggetto e dall'identità che si nomina lesbica, che si nomina, che si riconosce e che non ha paura di definirsi e nominarsi lesbica. Tutto questo ha significato collocarsi sempre di più all'interno di una pratica di relazioni con donne e fra donne. Attuare questo separatismo ci ha permesso di smantellare la costrizione che ci relega all'interno della gabbia obbligatoria del maschile-femminile. Insieme alle altre ci siamo domandate, elaborando anche le risposte, come l'essere lesbica e il dichiararsi tale possa sovvertire l'ordine dato, il pensiero unico assoluto, l'assoluto, la concezione eteropatriarcale che costantemente viene spacciata come unica possibile, e soprattutto quale simbolico rinasce da tutto questo. Vazona suas nove se quiser comer o seu sushi com cólera. Meia noite 10 descolhe mais digestivo. Ci siamo domandate da quali nuove origini viene alla luce e si incarna la volontà, unita al bisogno di riscrivere il simbolico. Quale strategia migliore che seguire quanto inscritto sui nostri corpi può rivelare le trappole del linguaggio? Ed infine, quali genealogie riconoscere come origini per rintracciare la genesi di quella trasmissione di memoria che può permetterci di riscrivere il mondo? Per andare un po' più nello specifico, ad esempio, secondo noi non può considerarsi una forma di riscrittura quella operata da tutti quei gruppi o movimenti che, rivendicando il riconoscimento dei diritti civili attraverso le unioni di fatto, i PACS e altri surrogati, auspicano l'omologazione alla coppia eterosessuale e alla famiglia, identificando queste come gli unici luoghi deputati all'acquisizione di privilegi. A parlarne al convegno sono intervenute oltre noi dei gruppi organizzatori, i gruppi che hanno organizzato, Michel Kuss, Jacqueline Julien, Cathy Barasque, Daniel Charest, Rosanna Fiocchetta e Simonetta Spinelli, introdotte di volta in volta da lesbiche che rappresentavano i gruppi che avevano organizzato. Si è così dibattuto con più di 100 donne di linguaggio, di visibilità, di genealogia della parola lesbica, di fenomenologia e pratica della rabbia, di diritti, di integrazione e o autorappresentazione, di omologazione, di guerrigliere e civilizzate. In particolare per noi del CLR il discorso si è incentrato sul linguaggio e sull'importanza della sua decostruzione per una riscrittura del simbolico. Come avevamo avuto modo già di esporre durante la trasmissione scorsa, tutto il nostro intervento si è condensato attorno alla figura centrale e imprescindibile di Valérie Solanas. Ricordate, Lucilla e Rosina ci hanno letto alcuni passaggi del libro Scum scritto da Valérie Solanas. Ma non siamo le sole a considerare questa donna importante per ciò che è riuscita a renderci leggibile. Come ha ben sottolineato Michel Kuss nella sua analisi, Valeria Valérie ha infranto un tabù estremo, l'odio verso il dominante, dominante che di fatto vieta il riconoscimento di noi stesse. Ora, partendo dal presupposto che soltanto un soggetto che legittima la propria esistenza può odiare e desiderare, può contrapporre al vuoto di sé la pienezza dell'utopia, allora, ci riconoscendo a noi stesse questa capacità, possiamo riconoscere alla Solanas il merito della visionarietà. Ciò che la Solanas ha scritto sembrava essere visionario, tanto era lontano dall'ordine dato, tanto si distaccava e prendeva le distanze da quello che veniva semplicemente imposto come assoluto, tanto cercava di combattere quanto era spacciato come imprescindibile, come dato dal quale partire per forza. Solanas ha sovvertito tutti gli schemi, regalando a tutte le donne una visione così, una visione delle cose effettuata da un'angolazione assai distante da quella consentita e consueta. Ha guardato con i suoi occhi il mondo e ci ha fotografato l'immagine reale dalla quale partire per reagire. Ed è dalla visione, infatti, che nasce l'utopia, quell'ispirazione ideale che ci costituisce soggetti di desiderio. Di Solanas abbiamo voluto fare nostra l'intuizione che ha dato vita a Scum e che comprende, ad esempio, il concetto di sabotaggio. Il sabotaggio si può assimilare al concetto di sovversione del sistema. Uno dei modi di sovvertire il sistema è quello di decostruire gli ingranaggi, stare all'interno dei meccanismi di trasmissione del potere soltanto per denormalizzarli, rendere sempre più esplicito che ciò che si vorrebbe spacciare come normale non è affatto normale. È invece un subdolo modo di avallare una pratica che vorrebbe portare tutti a far credere che adeguarsi alla norma significa essere normali. Accettare questo significa confermare la sottolineatura di una disuguaglianza, perché la norma, in effetti, non ci prevede. Io sono lesbica, non sono eterosessuale. Comportarmi come eterosessuale forse mi farebbe risultare più accettata, ma annullerei ciò che sono. E poi perché, per essere accettata, dovrei somigliare a qualcosa molto differente da me? Per anni mi hanno detto che se avessi lasciato il mio lesbismo nella camera da letto sarebbe stato molto meglio. Il mio essere altro creava disagio più in chi mi stava vicino che a me. Molti avevano problemi a collocarmi da qualche parte, mancavano i riferimenti, le definizioni. Ma tu chi sei? Un maschio mancato? Una mezza femmina? Una semidonna? No, io sono lesbica, lesbica e basta. Per questo è oltremodo importante stare all'interno del sistema salvaguardando la propria identità e quindi sottraendosi alla logica della riproduzione del suo modello, dato in qualsiasi forma esso si ripresenti, e quindi Pax, famiglia, carriera, taglia 42, eccetera. Siamo infatti consapevoli che il ricorso sconsiderato al relativismo radicale, dove tutto sembra essere relativo, rappresenta un pericolo perché ci riporta all'interno del bisogno dell'omologazione. Esso tende a riprodurre ineguaglianze sociali, attribuendo loro valore di differenze, mentre in realtà non sono altro che discriminazioni legalizzate, come suggeriscono Lasciareste e Spinelli. Bene. Visto che abbiamo parlato quindi di utopia, ascoltiamo a questo punto Alan Morissette in Utopia. This is my eye, deep, oh, my enemy. Dicevamo, attraverso la forza dell'autorappresentazione può avvenire il riconoscimento delle nostre molteplici specificità, delle nostre complessità, delle diverse esistenze. Noi crediamo che questo processo, quello di riconoscere le nostre soggettività multiple, passi attraverso la relazione tra donne. Del potere dirompente di questa pratica ha parlato Adrienne Rich, riconoscendo in essa attributi fondamentali, quali la resistenza, la solidarietà, l'interiorizzazione di individualità femminili, in altre parole, il cosiddetto continuum lesbico, intendendo per esso tutte quelle esperienze vissute collettivamente e individualmente, che indicano che le donne scelgono tra di loro rapporti privilegiati. In eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica di Adrienne Rich. Anche noi sperimentiamo questa pratica quotidianamente, partendo dal confronto fra pari. Mettiamo cioè in campo sapienze soggettive, ma all'interno di una identità comune, per delineare un quadro condiviso e mobile dei nostri vissuti. È un'esperienza che viene agita all'interno di gruppi o comunità, che spesso condividono le modalità di azione, che però può essere esportata verso altri ambiti. È il caso del lavoro che il CLR ha condiviso con un gruppo di donne appartenenti ad una cultura altra, le Africane di Nudi, con le quali abbiamo organizzato l'iniziativa Oppressione a Confronto nell'aprile del 2004. Oppressione a confronto, non perché riteniamo che tra donne ci si debba misurare al ribasso, ma perché abbiamo riconosciuto e riconosciamo tuttora nella sorellanza il comune denominatore attraverso il quale costruire un discorso condiviso e condivisibile. Partendo dal confronto dei reciproci vissuti, il partire da sé, siamo giunti ad un'analisi delle nostre esperienze di vita. La linea sottile che divide il disagio dall'agio ci è apparsa così metafora eloquente del rovesciamento che come donne tutte sappiamo agire, traendo forza proprio da ogni feroce tentativo di azzeramento della soggettività femminile. Ma torniamo al convegno, stavamo parlando del confronto dei reciproci vissuti che ci dà la possibilità di ribaltare a nostro favore la manovra che vorrebbe annullare la soggettività femminile. Proprio questo ribaltamento, così come ci ha suggerito Barasca, dovremmo operarlo nei confronti del linguaggio maschile. Tanto per cominciare dovremmo riappropriarci del termine lesbica. Proprio per il fatto che il linguaggio maschile ha fatto sì che nominandoci con questo termine ci viene tolta significanza, proprio per il fatto che usarlo ci nega, ci ingiuria, proprio per questo possiamo insieme e all'interno della nostra genealogia rivestirne il contenuto. A partire da questo, e come ci ha trasmesso Jacqueline Julien, potremmo allora costruire un nuovo genere di visibilità dove sarà possibile rintracciare il corpo lesbico sul palcoscenico sociale e sul piano simbolico. Il lavoro di decostruzione del linguaggio, che è per esempio fondamentale per estirpare la cultura maschile dello stupro, così come ci è apparso nell'esperienza con la filmmaker americana Isha Sadda Simmons durante la proiezione del suo film No, rendere visibile l'invisibile, che è stato proiettato nell'ottobre del 2004. Dicevo, la decostruzione del linguaggio, nonché la possibilità di partire dalla condivisione delle soggettività e la delineazione di relazioni significative, ci sembrano operazioni centrali per modificare quel pensiero egemone che non ci vede e nemmeno ci prevede. E per concludere questo nostro breve resoconto, diciamo che alla parola infelice connubio con l'immagine è stata dedicata anche la mostra Immagine Parola, curata da Grazia Orsini e Emilia Mazzocchi, che venerdì 13 maggio ha anticipato l'apertura del convegno e che ha ospitato i lavori di Loredana Baldin, Emilia Vitale, Grazia Orsini, Luchi Massa, Maria Onetti, Mimma Pisani, Emilia Mazzocchi, Pina Nuzzo, Paola Pieretto e Petra Bialas. Ora ascoltiamo insieme il brano musicale di Tracy Chapman, e qui è messa un po' a dura prova la mia talking about a revolution. Don't you know talking about a revolution sounds like a whisper? Don't you know talking about a revolution. It sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? Vi ricordiamo che state ascoltando È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane all'interno dello spazio autogestito femminista e lesbico di Radio Onda Rossa sugli 87.900 MHz. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. A tal proposito salutiamo le donne di Caserta, di Bari, di Catania, di Bologna, di Napoli, di Brescia e di Milano che nel corso delle trasmissioni precedenti ci hanno mandato un loro messaggio. Se ci state ascoltando via internet ci farebbe piacere sapere da dove. Anche per oggi aspettiamo tanti segnali da parte vostra, pure attraverso l'utilizzo dei trillini, e come diciamo sempre, se le cose che avete da dirci sono molte, potete inviarci una email all'indirizzo di posta elettronica contatti@clrbp.it oppure inviarci un fax allo 06 6864 201 oppure anche, per le amanti della carta, potete scriverci una lettera indirizzandola a CLR presso Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B. 00165 Roma. E a tal proposito salutiamo in maniera particolare Elena Di Vicovaro. Sì, io sto parlando anche se non sento più la cuffia sulle orecchie. Volevo leggere due messaggi al volo che sono arrivati. Il primo dice: che bello, sono da poco a Roma e per caso vi ho trovato in radio. Mi rende felice sapere che ci siete, continuate e spero che continueremo insieme a presto. Vale. L'altro invece dice: ciao, baci da Luisa. Luisa credo che sia una compagna di Catania, non mi vorrei sbagliare, ma credo che sia lei. Continuate a scrivere messaggi. Quindi ripetiamo ancora il telefono della radio 06 49 17 50 e il nostro cellulare sul quale inviare messaggi 338 41 46 682. Quindi, come poi abbiamo detto all'inizio della nostra trasmissione, con noi stasera c'è Monica Maggi. Ciao Monica. Ciao a tutte voi. Allora, chi è Monica Maggi? È una libera giornalista che occasionalmente collabora con diverse testate, è una scrittrice amante della scrittura delle donne, nonché un'attenta esaminatrice del mondo femminile. noi siamo entrate in contatto perché Monica ha iniziato come fruitrice a partecipare alle nostre proposte, grazie anche al suo lavoro che la porta spesso ad essere presente alle diverse iniziative che si organizzano sul territorio. Poi un giorno noi del CLR dovevamo organizzare una serata nella quale avremmo presentato un libro in collaborazione con la libreria Zora, libreria che ha la propria sede all'interno della Casa Internazionale delle Donne. In quell'occasione Stefania della libreria Zora ci ha presentate perché Monica avrebbe dovuto presentare con noi quel libro. Così è iniziata la nostra collaborazione, che ha dato un buon risultato in termini sia di partecipazione sia di risposta delle donne. A quella iniziativa ne sono seguite altre. Con Monica abbiamo dato vita ad altri due momenti importanti svolti nel centro femminista separatista. Il primo riguardava una serata dedicata all'erotismo lesbico, dove sul palco abbiamo letto testi poetici che ripercorrevano momenti storici diversi, fino ad arrivare alla lettura delle poesie di Monica, inserite nel suo ultimo libro, che si intitola La mia pelle è un cifrario. In seguito c'è stata un'altra collaborazione che ci ha viste prendere in esame il libro scritto dalla Libera Università delle Donne di Milano, Cocktail d'amore, nel quale abbiamo, ognuna di noi, dato voce alle diverse sensazioni che quel libro riesce a far nascere in chiunque lo legga. È stato bello ed importante constatare che anche donne, molto diverse tra loro per storia personale, per scelta di vita e percorsi politici, abbiano potuto trarre spunti di riflessione e trovare riferimenti importanti in quello stesso libro. A seguire Monica è venuta a trovarci qualche volta durante le nostre riunioni e spesso abbiamo parlato, parlato e parlato ancora, ognuno di noi raccontando se stessa. Ma oggi Monica è qui con noi e non dobbiamo presentare nessun libro, non dobbiamo leggere nessuna poesia, non dobbiamo rielaborare e rileggere la vita di donne scrittrici, eppure Monica è qui. Vuoi dirci tu stessa perché sei con noi oggi? Allora, ufficialmente perché mi avete invitato, però adesso ve lo dico, siamo qui, se non l'aveste fatto io vi avrei chiesto ufficialmente proprio di venire qui. Volevo essere qui con voi a microfoni aperti perché volevo inviare idealmente una lettera. Io sono un'appassionata della parola scritta, quindi volevo inviare idealmente una lettera indirizzata a più destinatarie. Allora, una lettera indirizzata alle femministe, perché volevo ringraziarle per la salvaguardia della memoria delle donne. Quello che loro hanno compiuto è stato qualche cosa che magari si è capito nel primo periodo: hanno sfondato una parete, hanno abbattuto un muro e poi si sono però scontrate con la costruzione di una società maschile. E voi che ho conosciuto personalmente siete quelle che strenuamente, coraggiosamente mi avevano messo in guardia contro di voi. Devo dire la verità, dove vai dalle separatiste? Devo dire che ho attraversato la soglia di quella stanza, ho detto oddio, e cosa mi aspetta qua? Il paradiso. E adesso spiego anche il perché. Quindi questo è indirizzato a voi, va bene? Allora, voi siete quelle che avete salvaguardato la memoria. Io sono una maniaca della memoria e quindi vi ringrazio per il grande lavoro che avete fatto, anche per le persone che non si rendono conto di questa cosa. In questa lettera io volevo anche indirizzare un messaggio, anche se il termine è abusato, alle lesbiche. Perché le donne lesbiche da questo momento in poi devono essere chiamate lesbiche, usando questo termine. Le persone che lo fanno devono usare questo termine con il massimo del rispetto, perché la lesbica, bisogna sottrarre il termine lesbica all'immaginario erotico maschile e non solo maschile. La lesbica non è la donna che ama le donne o che fa sesso con le donne. Bisogna tirare fuori dalla camera da letto l'immagine lesbica, ok? Il termine. Grazie lesbica. Di questo, perché io lo stiamo dicendo da anni. E la lesbica è la donna, anche se è ingiusto nei loro confronti usare un termine per fare una distinzione, non bisognerebbe farlo, però probabilmente c'è bisogno di farlo per ricostruire questa società. Le lesbiche sono donne che hanno fatto un durissimo lavoro, perché hanno lastricato una strada su cui, se tutte le donne ci danno una mano, possiamo camminare tutte insieme per i nostri diritti, che non sono i PACS, i vari PACS o quello che sono altri diritti. E questa lettera è indirizzata alla fine a tutte le donne, soprattutto alle donne giovani, ma non solo le giovani, perché ho trovato molte donne dell'età mia che del femminismo non sanno assolutamente nulla, tantomeno del lesbismo, e quello che sanno l'hanno mutuato dal mondo maschile. Esatto. le donne devono oltrepassare la soglia del vostro, della vostra casa, della casa delle donne, del CLR, e della cercare casa. Della vostra casa, della vostra casa, e devono vedere che lavoro avete fatto anche per loro, che non se ne sono rese conto. Per quanto riguarda me, poi chiudo questa lettera e la spedisco. Per quanto riguarda me, devo dire che il senso di gratitudine e di veramente di gratitudine che io ho nei vostri confronti e che ho sempre esternato appena mi è stato possibile fare, è proprio di gratitudine, perché voi avete conservato per me la memoria del femminismo, la dignità del termine lesbica e la memoria. Tutto quello che a un certo punto è stato accantonato, distrutto, capitalizzato, commercializzato, reinterpretato. E reinterpretato, voi l'avete tenuto autentico, l'avete mantenuto autentico. E devo dire, per quanto riguarda me, qui il discorso si fa più personale, devo dire che da voi ho trovato tutto quello che io non avevo trovato in altri posti, perché non nascondo che in me alberga una donna che ama le donne. E per capire questo, per verificare questo, per un lungo periodo ho messo tutto da parte e ho quasi dimenticato, violentando questa parte di me. Quando ho riscoperto questa parte di me, nel frattempo ho fatto tante altre cose. Certo. Sono andata a cercare questa me in posti assolutamente sbagliati, negativi. E devo dire che invece il vostro posto, la vostra casa, è la casa migliore, perché non mi ha mai messo in conflitto con quello che avevo costruito nel frattempo, non mi ha mai giudicato, io mi sono sentita sempre esente da giudizio, e mi ha accolto e mi ha dato finalmente la serenità di cui avevo bisogno. Quindi devo dire che donne, andate al CLR, perché abbandonate le chat, abbandonate le discoteche, la maglia, i film, tutto quello che è, andate al CLR, non vi mangiano, è assolutamente tutt'altro. E devo dire che questo, tu sai bene che, voi sapete bene che in qualche modo ho cercato di renderlo con le parole scritte. Sì. Io alla fine di quella meravigliosa serata dell'11 febbraio ho scritto. Io l'ho portata, so? È portato questa lettera. Certo. Ecco, vabbè, siamo adesso rovinati. Ti costringerò a leggerla insieme a me. Ti costringerò a leggerla insieme a me. Comunque, quello che hai detto è molto bello, è molto importante, è molto vero, e poi, come diciamo sempre noi, ognuna è il risultato della propria storia, quindi a nessuna nessuna deve arrogarsi il diritto di giudicare, perché quello che si fa sempre nel migliore dei casi consapevolmente, ma sicuramente in oggi buona fede. Oggi non sono più sola. Esatto. E io ti volevo trasmettere un attimino l'emozione che mi hai trasmesso attraverso queste cose che hai detto, che non me le avevi fatte leggere prima della trasmissione, giuro, le hai tenute nascostissime, per sono cui andata a braccio come sempre. Esatto, per cui io ti voglio dedicare alcune parole che sono state scritte però da una donna molto importante per me, è Audre Lorde, ed è un passaggio tratto dal Sister Outsider. Possiamo imparare a lavorare e a parlare quando siamo impaurite, nella stessa maniera in cui abbiamo imparato a parlare e a lavorare quando eravamo stanche. Ma noi abbiamo imparato a rispettare la paura più del nostro bisogno di parlare. E se aspetteremo in silenzio il lusso finale di non avere più paura, il senso e il peso del nostro silenzio ci stroncherà. Grazie. Grazie a te. Io direi un attimino di fare un breve stacchetto musicale, perché smaltiamo l'emozione. Esatto. E la commozione. Va esatto. Bene. Allora, io metto su indicazione di Monica Daido con il brano Take My Hand, e vi stringiamo tutte nelle nostre mani, metaforicamente, chiaramente, perché chissà, siamo qui. Comunque, ascoltiamo Daido. Lie down next to me, look into my eyes, and tell me, oh tell me what you're seeing. So sit on top of the world and tell me how you're feeling, what you feel. Allora, purtroppo il tempo è sempre tiranno. Io mi sono ripresa un attimo dall'emozione e vado a leggere il pezzo, molto molto bello. A me anche questo ha suscitato tantissime emozioni, che ci ha mandato Monica dopo un'iniziativa che avevamo fatto insieme. Io adesso l'ho convinta a leggerlo perché io l'ho affrontata senza dirle niente, quindi ve lo leggiamo. A due voci, una io interpreterò una parte di Monica, comunque è sempre lei che parla, ok? Si intitola Ricordo. Mi ricordo quando mettevo da parte i ritagli inspiegabili di giornali, che piegavo e ripiegavo e li serravo tra le pagine dei miei libri di scuola o di quelli che stavo leggendo. Mi ricordo delle note a margine che scrivevo, con la matita preferibilmente, incollate verticali sulla sinistra o sulla destra della pagina. Ricordo anche la strada che facevo per arrivare a scuola, il liceo classico che frequentavo con vera devozione per le figure che stavo studiando. Mi ricordo così tanto la strada e il percorso e la sensazione che provavo, passo dopo passo, piede dopo piede, che ancora oggi me la risogno spesso, di notte, vivida e a colori. A questi ricordi puntuali e inesorabili io, oggi, chiedo: perché siete tornati? E soprattutto, perché siete tornati a vivere? Cosa volete dirmi? La mia timidezza era abissale. Mascherandola bene, come si fa con il cerone prima di una recita, ne usciva un'arroganza e una spavalderia incredibile anche per me. Ma funzionava, e come se funzionava. E così ero puntualmente in capo alla fila, all'inizio di ogni progetto, portatrice di ogni stanza. Io ho tutto un mio metodo per capovolgere la timidezza in sfrontataggine. Quando salgo su un palco, poi, la rivolto come si farebbe con un calzino e la indosso, e sta a pennello. E così ho fatto anche stasera, che mi sentivo sotto la luce di una lampada, di tante candele, di occhi curiosi, del tuo sguardo. Attraverso barcollante lo spazio dello scalino e ci sono, il legno scricchiola, prendo il microfono e mi innamoro della mia voce. C'è chi ha creduto in me e non posso deludere adesso. Ci sono delle donne, ci sono i loro vissuti, ci sono le loro strade e ci sono i miei ricordi. I libri di scuola sono stati sempre per me un cofanetto di sorprese, e soprattutto quelli di greco. Chissà perché, come per l'amore vero, il greco ha avuto sempre due facce: l'odio, la passione, la repulsione e il desiderio, lo schiaffo e l'umido del bacio. Se potessi oggi, tornerei a studiare. Passerei le ore a capochino sui libri, a fare solo questo, senza doveri e compiti di pranzi, di cene, lavaggi, cure e pulizie. Nel mio essere, di sicuro, dorme una barbona colta e menefreghista, che per farsi perdonare è diventata una manageriale donna di famiglia. Mi ricordo quando attraversavo le piazze piene di gente in gruppo, con bandiere e fiori, e io che prendevo fiato e coraggio per alzare un pugno e alzare una voce. Poi guardavo in alto e la mia mano piccola sembrava enorme, ritagliata nell'azzurro del cielo primaverile di Roma. Mi chiedo cosa ricordi tu di questi momenti, che forse non li hai vissuto mai. Tu sei nata quando io ero quasi al termine di questa strada, perché alla fine c'è stato un vortice, una girandola che con la forza dell'aria risucchiante mi ha portato via. Eppure, i fiori gialli dell'inizio della primavera ancora mi chiamano. Non riesco neanche a mangiare quando ho queste serate. Lo stomaco mi si aggroviglia tutto, e stasera in particolare. Sono dentro i miei ricordi, al mio sogno, ad un tempio davanti al quale sono passata giorni e giorni e giorni, sentendomi sempre poco avente diritto. Chissà poi perché. Non è una colpa aver avuto poco coraggio, almeno lo spero, come non è un delitto non aver posseduto gli strumenti giusti, la chiave adatta per aprire la porta. Io ci sto provando da qualche tempo, e forse stasera le do una bella spallata a questa porta infame che mi ha bloccato per anni. La cosa buffa è che dietro questa porta c'ero sempre io, spalmata e aderente, che facevo forza e puntellavo i piedi perché non si aprisse neanche un po'. E forse è a questo clone carogna che parlo stasera. Inizio con le parole che tanto mi sono piaciute, sempre, e ti guardo appena. Non posso farlo che per un attimo. Se ti fissassi, mi perderei. C'era una volta, dico, e comincio a raccontare la storia di tutte le storie, la storia dell'amore e la storia della vita. Avere a che fare con il presente, quando ad ogni gesto si intreccia col profumo del passato che potrebbe diventare futuro, è un bel pasticcio. Alla fine mi siedo, e mi metto la mano fra i capelli e cerco di ricominciare da capo e di prendere una decisione. Brutto tutto? Getto via anche l'ultima possibilità? Se prima ero cieca, cieca dalla giovinezza, adesso non posso più, gli dei si arrabbierebbero e tanto. Ognuno di noi ha talento, mi diceva un collega, e il peggior peccato è sotterrarlo e non farlo rendere. Io ce l'ho, ho fatto finta di non saperlo per tanto tempo, perché sapevo che era come i giornali di adesso. Allegato c'era qualcosa, o pigliavo tutti e due o mollavo tutto. Ho vissuto la seconda scelta per tanto tempo, ma ho diritto oggi alla prima scelta, alla primizia, alla gioia. Anche quella porta laggiù, nella sala, che ho attraversato, anche queste donne che mi guardano e che avrebbero avuto tutti i motivi per non accogliermi e che invece mi hanno adottato, loro che si sono fidate quando tutto diceva il contrario, anche questo è un segno. Quando sono davanti al microfono, nella sala fisso un punto lontano e parlo. Modulo la voce come fosse uno strumento musicale, suono corde e pigio tasti, seguo una mia melodia interna che deve esprimere felicità, stupore, nostalgia, malinconia, euforia, sorpresa. Tutte le varianti di una canzone devono uscire dalla mia gola, come farebbe un canto, e invece sono parole, perché io non so cantare. Io ci provo timidamente a casa, ma lo faccio per me. In genere, se devo aprire il cuore, scrivo. Oppure faccio come stasera, racconto. Mi racconto, ci racconto, racconto la storia che ogni donna vorrebbe ascoltare dal suo amore. Vorrei che mi raccontassi una storia, come sai fare tu, mi diceva lei accanto a me, di mattina presto. E io mi appoggiavo al suo fianco, lei chiudeva gli occhi, io mettevo piano le labbra sul suo orecchio e un po' tra i capelli sparsi sul cuscino, un po' tra viso e tempia, raccontavo l'eterna storia del niente e del tutto, della luce e del buio, del nascere e morire. E così facendo le passavo un dito sulla bocca chiusa e lei sospirava. A volte, mi ha rivelato poi, si toccava piano sotto le lenzuola e arrivava all'orgasmo come se navigasse su una piccola barca. Scivolava sul fluire lento delle mie parole. Forse io mi racconto una storia stasera, che è quella del fluire, del finire e ricominciare, della circolarità della vita. Forse è questo che cerco di lasciarti in eredità, di farti capire, ogni volta che noi due stiamo insieme, che siamo qui per darci e non per toglierci. Ho sempre scritto tanto, ma la scrittura è una bestia strana. È come un serbatoio bucato da qualche parte che non so, perché io cerco di svuotarlo, ma è sempre pieno. Ci deve essere qualche infiltrazione, mi dico, perché io scrivo e il mio cuore, invece di pulirsi e alleggerirsi, si inzuppa e si riempie di nuovo. La scrittura è stata l'inizio di tutto, io forse lo sapevo. Scrivevo dappertutto e a volte oggi ritrovo libri con bigliettini dentro. Mi ricordo che quando non andavo a scuola, invece di rifugiarmi in qualche cinema o in qualche parco, me ne andavo nelle biblioteche, oppure in un angolo, a scrivere, in un bar, in un caffè, in un posto qualsiasi, e scrivevo. Ma non ho mai pensato di leggere quello che scrivevo a qualcun altro. Ne provavo profonda vergogna, come se la mia voce svilisse e riducesse le sensazioni che avevo messo sul foglio. Invece un segreto c'era, e tu me l'hai insegnato. Racconta la tua storia. Le tue poesie devono essere solo il tetto di questa casa, ma sei tu la padrona, sei tu che ti muovi e spieghi e narri, non declamare, porci e offri. Mi ricordo che, una volta che mi innamoravo, sormeggevo di lettere e biglietti la persona amata. L'amavo così, la veneravo così, l'adoravo con le pagliuzze dorate delle parole, ma spesso rimaneva un monologo. Dico così anche stasera, che tutto questo amore che ho sentito e vissuto è un po' di tutte noi. Lo è stato anche la prima sera, in cui queste donne hanno chiesto di me, ed era giusto che lo facessero. Non è l'amore vissuto con un'altra donna, che diventa un visto per l'ingresso in qualunque mondo. Per la prima volta io mi sono chiesta e risposta, e ho raccontato anche a loro. Fare questo per me ha avuto un senso. Ricordo che avrei voluto, disperatamente voluto, qualcuno a cui raccontare il tormento che mi attraversava obliquamente così spesso. Ma non c'era nessuno. Allora cercavo di cancellare la pena con il furore dei sensi, tagliando di traverso anche la mente. Come chi si faceva di droga, allora io mi facevo di sesso. Il dolore che si prova con la droga non so e non lo saprò mai. Le ho provate quasi tutte, di striscio, ma non mi interessava. Io non volevo stordire la mente, anzi, ricordo che volevo essere presente, sempre, e agire e manovrare e sentire, percepire, ascoltare tutto il dolore fino in fondo, tutta la crudezza e il vuoto della cosa che stavo facendo, dell'assurdità che stavo vivendo. La droga stravolge la realtà, il sesso no. Il sesso prende a pugni il cuore e l'anima e lascia senza fiato perché qualcuno è entrato e ha saccheggiato. E poi bisogna ricominciare da capo, rimettere tutto a posto, tutto quello che si è volutamente distrutto. Stasera vorrei parlare di quello che succede quando si ama davvero. E quando succede, è bellissimo e terribile. Ricordo che sono sempre stata l'amica, la confidente, la compagna, la sorella maggiore. Tutti i ruoli che mi hanno permesso una cosa: vivere di striscio e di riflesso quello che non azzardavo di persona. Eteree fanciulle mi confidavano le loro pene, ardite ragazze mi chiedevano appoggio e complicità, bellezze che io non sarei mai stata, mi dicevano che avrebbero voluto essere come me, assurdo, io volevo essere come loro, belle, altere, svettanti e sicure, amate, corteggiate, desiderate. Ma quando accadeva che un uomo lo facesse con me, mi veniva da ridere. Perché? Il giorno che ho aperto il libro di Greco e ho letto i tormenti di Saffo per Anattoria, sono rimasta senza fiato. Erano le mie parole. Era un profumo noto, stordente, come la scia che si sente del pane sfornato tornando da scuola, o del piatto preferito che la madre ha cucinato, e si salgono le scale correndo, per la fame e per la felicità che già si pregusta. Erano le parole che avrei voluto sempre, solo pronunciare, sempre voluto ascoltare. Erano note da sempre, eppure non le avevo lette mai. Eppure immaginavo lei, mesta, con le mani in grembo, a raccontare la sua storia d'amore alla gente ferma ad ascoltare. Sento che stasera devo fare la stessa cosa, stasera come ho fatto altre volte. Ma stasera è diverso. Ho occhi cari che mi guardano, i tuoi e i loro. E vedo che siamo come sorelle nel buio, come se ci tenessimo per mano, come se loro mi incoraggiassero ad osare, azzardare. In una parola, a vivere. Questa cosa è un miracolo e una tragedia. Non riuscivo a sentirmi così leggera e così corporea da tanto, forse da sempre. Loro sanno tutto di me e questo non mi ha impedito di stare qui. Sento anche il tuo sguardo. Da domani niente sarà più come prima. Giovedì 26 maggio 2005 dalle 20:30 alle 22:30 presso l'associazione ABC in via Picco dei Tre Signori 11 a Roma, il gruppo esperienziale Diversi da chi? Come usare l'arte terapia, scusate, per valorizzare e integrare le differenze. L'esperienza sarà condotta dalla dottoressa Daniela Ciriello, psicoterapeuta e art counselor. Mannaggia. Prenotazioni. Perché gliele facciamo leggere sempre a lei queste cose? Allora, per prenotazioni telefonare o scrivere. Sono d'accordo, sono convintissima anche io. Comunque, in ogni caso, se vi volete prenotare potete telefonare o scrivere al cellulare della dottoressa Ciriello al 338 1139 791, oppure al numero di telefono 06 78 51 227, oppure meglio ancora mandare un'email a daniela.ciriello@yol.it. Precisiamo che l'incontro è gratuito. Inoltre volevamo ricordarvi che la libreria Zora presso la Casa Internazionale della Donna, per cambio di attività, sta effettuando una vendita straordinaria dei suoi libri con lo sconto del 30%. E chiaramente tutti i libri che sono lì in libreria, quindi non si possono ordinare eventualmente libri che non hanno, stanno dando via praticamente tutto. Io volevo leggervi un altro messaggio che è arrivato, un grazie per le emozioni di stasera, sempre da Luisa, e l'altro invece condivido, ho 28 anni e la radio, quindi il CLR, all'inizio mi hanno dato quella tranquillità di cui avevo bisogno, anche se mi nascondo ancora nell'ombra. Thank you, Bezos Joe. Ok, grazie per i messaggi. Allora, noi ringraziamo sicuramente Monica di essere venuta qui e di averci dato come al solito tante, tante emozioni. Io volevo mettere una canzone, forse qualche minuto c'è prima che sfumi tutto quanto, e volevo aspetta un attimo che la trovo. Sì, eccola qua, una canzone che è cantata da una donna proveniente dal Brasile che si chiama Mo Marinas e si intitola Foto Viva. Con questa canzone il CLR vi dà appuntamento alla settimana prossima con la replica di questa trasmissione. I messaggi potete continuare ad inviarli anche la settimana prossima, poi vi ricordiamo che verranno comunque tutti inseriti sul nostro sito, che è www.clrbp.it, e vi diamo un piccolo anticipo, piccolo per la prossima trasmissione che andrà in onda dopo quella replica del 31, e probabilmente faremo una trasmissione sulle problematiche che verranno fuori sul referendum. Che dire, vi saluto, un bacio a tutti voi, grazie e per averci fatto canzone. Compagnia anche voi, un bacio, ciao. Pensando em você, pensando no vazio que você deixou, acordei e fiz uma canção. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that.